area più lontana dallo Stato? No, mi sembrerebbe molto ridicolo sostenere questo. Quindi non è che l'appartenenza rossa e l'appartenenza nazionale fossero in contraddizione, ma anche la perspettiva, ha scoperto Antonio nel 1917, ha scoperto che questo paese divisissimo fra nord e sud, non tra nord, una guerra che sostanzialmente non aveva voluto, ecco, trovo una qualche ragione per rimettersi insieme, non era possibile tutto per scontato, e dei processi sono andati avanti, e se c'è un momento in cui quella identità viene crisi, di nuovo ritorniamo alla testa della Repubblica, è allora che Rusconi scrive un libro se ci siamo di essere nazione e così via. Quindi, diciamo, cioè, potremmo anche continuare, insomma, d'accordo, ci siamo capiti. Ecco, invece il Sud c'è un capitolo intitolato e continuità intrigante, cioè tra queste idee di un rapporto con un passato che sta anche prima della crisi degli anni 90 o prima del periodo della seconda guerra mondiale, c'è qualche aggancio più plausibile? Tu mi pare che identifichi alcuni problemi, questi sono sì interessanti. Allora appunto il capitolo si richiama il periodo di verità del fascismo, sostanzialmente, che è un punto secondo me molto forte e un punto molto forte su cui forse conviene anche un po' intendersi, perché Antonio, tu lo ricorderai, insomma, per molto tempo anche Marcello Floris, che c'era gioco che ho visto e che ho visto qui, insomma, c'è un momento in cui l'eredità del fascismo appariva soprattutto, no, come un'eredità di strutture e apparati che non si erano rinnovati, no? La continuità dello Stato, la presenza di magistrature, insomma, magistratura, pezzi dello Stato che erano sostanzialmente quelli ereditati dal fascismo e che poi si consolidano negli anni della guerra fredda. Ma questa è una verità che pesa ed è da qui, in queste strutture che ripeto si consolidano in senso comunista nel corso della guerra fredda, che creeranno anche pericoli seri per la democrazia, dal piano solo alla strategia della tensione e così via. Ma appunto, diciamo, senza, solo per fare un esempio, insomma, che a me colpì molto, anche se appunto ero convinto che ci fosse stata continuità, ma a me ha colpito molto trovare per la prima volta in archivio di Stato la conferma di una cosa che il Ministero ha sempre smentito, cioè che il casellario politico centrale, cioè lo strumento inventato da Crispi ma rafforzato dal fascismo enormemente per controllare gli oppositori, era continuato tranquillamente nei confronti di socialisti e comunisti anche negli anni 50 e 60. Quindi con delle cose anche un po' bizzarre, perché c'è un rapporto che gli dà idea di questa comunità, che era appunto il primo elemento, finiscono con questa, appunto, pezzo d'archivio, cioè il prefetto di Bologna che racconta la storia di un socialista bolognese, dice, iscritto al casellario politico centrale nel 21 e poi è andato all'estero, è emigrato, eccetera, è tornato, di nuovo l'abbiamo riscritto dopo la liberazione. Cioè, mi dà l'idea di qualcosa che pesa. Infatti Alessandro Navarrete Garrone, magistrato, ricordando la sua vita, dice, ma io mi sentivo più libero negli anni 30 come magistrato che negli anni 50, negli anni 30 ai vertici della magistratura c'era una magistratura che si era formata all'Italia liberale e che in qualche modo faceva argine, comunque negli anni 50 e 60 ai vertici della magistratura ci sono magistrati che hanno fatto carriera, non spesso non per ragioni di merito, insomma, durante il ciclo. Ecco, questo è il primo esempio. Questo aspetto naturalmente da un certo punto di vista in poi è pesato sempre meno. E però ce n'è un altro che io credo che proprio che in qualche modo ci avvicina di più, qualcos'altro che era rimasto sullo sfondo ma che si vedeva meglio, diciamo, e anche questo è interessante, è una cosa appunto che ha richiamato, fece molto scalpore quando la richiamò Giuliano Amato, che quando nel 1993, dimettendosi pieno di tangentopoli, manipolite, eccetera, crisi della Prima Repubblica, come si diceva, e allora la Prima Repubblica era considerata un insulto, adesso vorrei dire, c'è una cosa chiusa la parente, insomma, ecco, Giuliano Amato dice, guardate, oggi, no, 1993, finisce la partitocrazia, finisce quella partitocrazia che era iniziata col fascismo. La Repubblica ha messo solo al plurale i partiti, quello che il fascismo ha fatto al singolare. Scandalo, Roberto Bobbio, un po' critica e così via, insomma, la discussione, ma in realtà, appunto, Amato riprendeva quello che un suo amico storico, di grandissimo valore, Luciano Cafagna, aveva appena scritto in un libretto bellissimo su quegli anni che ha come titolo La Grande Slavina, no? Rolo, no? E Cafagna faceva delle osservazioni che, se ci pensate, non sono particolarmente discutibili, insomma, sembrano abbastanza quasi ovvie, insomma, no? Cioè ricordavo in sostanza perché in Italia la politica è diventata di massa durante il fascismo, la politica come mestiere è cominciata davvero durante il fascismo. Insomma, guardate, io studiavo i contadini, la Fede Bracciale nel 1920, c'era 800.000 iscritti e un impiegato e mezzo, cioè mezzo tempo. E durante il fascismo ad Arezzo lo scriveva Ragionieri, già c'era una città media, con Arezzo lo scriveva Ragionieri già negli anni 70, c'erano 40 funzionari pagati, 30 gerarchi e così via. La politica come mestiere, la politica come garanzia di privilegio, l'appartenenza politica come privilegio, l'intreccio fra interesse del partito e interesse dello Stato. Beh, non è che queste cose sono risolte come le assurde, sono rimaste un po' sullo sfondo e forse si notavano meno nel momento in cui in dubbio, dopo poi ne parliamo, in cui i partiti hanno avuto un ruolo positivo nella storia del paese. Man mano che questo ruolo positivo deriva, i difetti emergevano e rimanevano solo difetti, allora capite che una politica parte solo di confusione tra interesse del partito e interesse dello Stato, politica come garanzia del privilegio, no? E con questa forse, cioè l'idea che questo paese appunto ha conosciuto per la prima volta la presenza dello Stato, quindi la politica come mediazione necessaria tra città e Stato durante un regime autoritario. E questo ha pesato enormemente, e qualcosa di questo, no, è rimasto anche nel dopo, nella mentalità, nel modo di concepire l'iscrizione, no? Non da solo, no? Però questo elemento, credo che questo elemento conti, insomma, sia un elemento che ha pesato negativamente, insomma, il fatto che non abbiamo conosciuto la politica di massa in un regime autoritario, sostanzialmente, a parte le esperienze socialiste, eccetera. Va bene, possiamo parlare un po' dei conflitti. Allora, io vorrei farlo leggendo un pezzo del tuo libro. Educazione alla democrazia, virgola, ma puntini puntini. Allora leggo un momento. Guardando da vicino alla pedagogia comunista di quegli anni, cioè parliamo di guardiamo i futuri, gli anni 50, è difficile parlare di un pieno disciplinamento democratico. Questa è la formula che spesso abbiamo usato, e io penso anche per certi aspetti ha ragione, cioè questa immensa opera di educazione alla democrazia di grandi masse che uscivano dall'esperienza del totalitarismo. Però dice Renzi, è difficile parlare di un pieno disciplinamento democratico. La prassi di origine staliniana dell'annullamento e della cancellazione degli opposti è solo la spia di qualcosa di più profondo che atteneva alle modalità stesse dell'essere comunista. I documenti e i verbali interni, la stampa di partito, le memorie dei militanti compongono un quadro che a tratti limiti una concezione totalizzante della militanza come scelta di vita, intrisa di spirito di sacrificio e di subordinazione al partito, una insistita sottolineatura della moralità comunista e del costume comunista, il primato assoluto della politica e il suo intransigente prevalere sul privato, un'adesione completa all'organizzazione come elemento costitutivo di serietà e forza, un centralismo democratico che significava anche la piena rinuncia all'espressione pubblica del dissenso. Questo è un breve tratto di un aspetto della storia comunista che è importante, è vero, a cui dobbiamo riferirci. Certo, qui lui intratteneva una specie di, lo chiama anche, partito militante, partito combattente. Ecco, che quanto pesa questa? Proviamo a ragionare sul lungo periodo, uscendo un pochino dallo schema che ti ho proposto io stesso adesso della situazione del fascismo. Quanto pesa, continua a pesare? In fondo c'è ancora questo fantasma intorno a noi oggi? No, intanto appunto poi hai parlato solo della parte, della seconda parte, cioè hai richiamato, no, del disciplinamento, cioè nel senso, voglio dire, diciamo, a me sembra molto importante una cosa a cui Antonio ha fatto solo un accenno, no? Il straordinario versante di che indubbiamente è stato di disciplinamento, di educazione democratica, cioè anche qui quando molte volte, qui molte discussioni, ripeto, quando si parla del Partito Comunista sembra che si parli di una cosa che non si sa. Insomma, nel 1944 il Partito Comunista era clandestino, aveva poche centinaia di iscritti. Alla fine del 1945 ha 1.700.000 iscritti, 2003, 2004, e iscritti erano più giovani, cresciuti durante il fascismo, anche in larga parte anche segnati dall'esperienza del 43-45, non solo dall'esperienza, ma proprio dalla guerra, dalle durezze della guerra, insomma, da quell'Italia lì. Ecco, portare dentro la democrazia questa massa enorme di persone è stato un po' meno straordinario. Certo, in molti casi si dice l'ambiguità, poi ovviamente se tu devi dialogare con una persona e portarlo dentro la democrazia, devi parlare sul linguaggio, non è che puoi parlare un altro, se parli un altro ti metti le manette, è chiusa. No, ma questo ruolo, diciamo, di educazione indubbiamente c'è stato ed è stato un ruolo straordinario. Il limite è quello che diceva Antonio, ed è un limite, ma Antonio che ha, diciamo, ha pesato, no, adesso non credo, ma ha pesato molto oltre il Partito Comunista, cioè la subordinazione dell'individuale al collettivo. No? Allora adesso, ma io, diciamo, naturalmente quel clima, no? A me mi ha molto colpito i diari col fatto che nelle scuole quadre degli anni 40, inizio anni 50, l'Italia doveva autoflagellarsi di fronte al partito, spiegava che era piccolo borghese, cioè processi, cioè, esponendosi a una specie di processo purificatore, diciamo, no? Subordinandosi al collettivo. Certo, però se ci pensate, io se ci penso io lo posso capire in qualche modo per quegli anni, per gli anni di uscita dal fascismo, di guerra fredda assoluta, lo posso comprendere, diciamo. Quello che non capisco è come pezzi di quest'idea, no? Per cui il collettivo doveva prevalere, il partito prevaleva sull'individuo, ce la siamo portata dietro anche noi, anche diciamo persone che non vengono da quell'esperienza, insomma. Non è che, non so se tu te lo ricordi, ma insomma non è che sì, che non ridivamo quando leggevamo quella poesia di Brecht che dice meglio avere torto con il partito che ragione fuori del partito. Ma sì, che mi sembrava, no? Cioè, no, mi sembrava, guardate che però questa cosa qui ha avuto conseguenze fortissime, ripeto, anche rispetto alla sinistra non direttamente comunista, la sinistra extraparlamentare, quella più di sinistra. E la chiave di tornasole è stata la comprensione, l'incomprensione assoluta rispetto al dissenso dei paesi dell'est. Perché certamente il Partito Comunista nel 68, facciamo perdere il 56, insomma nel 1968 il Partito Comunista passa rapidamente dal grave dissenso nei confronti dell'invasione all'accettazione della normalizzazione sovietica, russa, insomma, e appunto. Nel 1981, quando è il 1981, quando Berlinguer dichiara esaurita la spinta propulsiva, e Frattini che fa una vignetta fulminante e fa dire a Berlinguer: se i russi invadono la Polonia, straccio la tessera del 1956. No? Cioè, questo è lo scatto. Ma questo, guardate, è solo un pezzo, perché lì, diciamo, quello che io di nuovo, quello che io non capisco è quella che è stata la nostra incomprensione di fronte a questi. Perché la mia generazione non ha mai avuto il mito della Russia, la nostra, insomma, e nel 68 però, diciamo, di fronte ai nostri coetanei cecoslovacchi, polacchi, eccetera, non è che ci siamo scaldati più di tanto. Guardate, la Cecoslovacchia, d'Urso, sì, pochissimo, non chiudevo gli occhi. Guardate, io ho scoperto, non ci accorgevo, ad esempio, che in Polonia studenti e docenti furono espulsi da questa, dalla Polonia comunista, nel 1968 all'interno della campagna antisemita, furono Micnik, eccetera, furono accusati di essere sionisti. Era proprio nel 1968, facevo finta di non accorgersi che il glorioso Partito Comunista di Vienna e la Libertà di Cuba approvarono l'intervento sovietico. Salvo scoprire 10 anni dopo i mercenari cubani in Corno d'Africa, il Vietnam, il Bolivia, la fuga, eccetera. Ecco, questo aspetto, in sostanza, la sottovalutazione della democrazia formale, di questo sto parlando. Certo, anche dell'altro. Il far prevalere della democrazia sostanziale rispetto alla democrazia formale. Un'altra frase che ci piaceva molto era appunto: per fare la frittata bisogna rompere le uova. Peccato che le uova, in alcuni casi, fossero alcuni milioni di persone. No? Ecco, questo è una cosa che ci ha lasciato. Credo che adesso non ci sia più, diciamo, questo non è più. Yeah. devo dire che abbiamo preso in giro con qualche gusto anche Giuliano Amato un paio di anni fa, in un decennale, insomma, 2 anni fa, in cui mi ha lasciato parlare. Io peraltro, riprendevo un libro bellissimo di Anna Bravo, proprio il cuore, mi ha lasciato parlare, e poi mi domanda molto ironica, voi 68 siete sempre uguali, allora pensavate che il mondo potevate cambiarlo solo voi, adesso se non è cambiato è tutta colpa vostra. Allora può darsi che questo eccesso di critica ci sia, però devo dire che in un paese in cui la colpa è sempre degli altri, insomma, provare a fare eccezione alla regola, provare a dire è stata anche colpa mia, colpa nostra, insomma, naturalmente mi sembra un esercizio perlomeno raro, diciamo, non molto frequente. Però non c'è dubbio che l'aspetto innovativo, appunto, è esattamente quello che dici te, nel senso che indubbiamente, diciamo, è stato un grande momento di liberazione. In qualche modo l'Italia ha vissuto, non era stato neanche un merito nostro, diciamo, cioè nel senso che per certi aspetti, nel senso che è scoppiata una contraddizione, cioè l'Italia negli anni precedenti aveva avuto 2 velocità, cioè una società che si era trasformata in modo straordinario, che con una circolazione culturale internazionale che non aveva mai avuto, e strutture assolutamente arcaiche. E adesso, appunto, diciamo, poi molte volte ce ne dimentichiamo, insomma, ma il caso che iniziò che portò alla luce, insomma, Fermenti addirittura dalle superiori, fu il caso della Zanzara, cioè il giornale del liceo Parini di Milano. Ma forse di quella storia qualcosa ce la siamo dimenticata per via, nel senso che ci ricordiamo che, appunto, il giornale di liceo Parini, i ragazzi di liceo Parini fecero inchiesta sulle ragazze, cosa pensano le ragazze d'oggi, poi che fece scandalo, ma cioè, raccontava cose normali, non sono con genitori, la cosa più osè era l'amore prematrimoniale, insomma, quello, no? I tre autori dell'articolo si rifiutano di dire chi sono le ragazze intervistate, vengono processati, e il giudice, questo in genere se lo dimentichiamo, ma ci fa capire le due Italie, no? Di allora, il giudice di Milano che fa da pubblico ministero li convoca presso di sé e gli dice di spogliarsi. Cioè applica una circolare fascista degli anni 30 che in caso di minori prevedeva anche ispezioni corporali per capire se erano capaci di intendere e di volere. Aveva una media che andava da 9 a 10 al liceo classico Parigi, dove non li regalavano proprio tutti. Beh, voi capite, ecco, che unità è ipocrita, perché Cotone è retrata, e appunto dei giovani che sui giornali di scuola cominciavano a non scrivere più dei festini o delle cose eccetera, ma parlavano di Biafra, di Fabio del Monte, di questi temi qua, diciamo, no? Quindi, diciamo, esplode il 68 e Salvatore esplode in questo. Allora, da un lato il problema è perché quella spinta di quel tipo non è continuata, insomma. E poi, appunto, le cose che dicevo prima, in parte, se vuoi, lo anticipo. Da un lato, se guardiamo questo periodo, no? Questo ventennio che va appunto dal 58 al 78, se volete, no? 58 come anno d'inizio, del miracolo economico, al 78, che ha come simbolo, insomma, il funerale di Moro, ma se volete anche perché la storia è anche fatta così. Nel 78 c'è l'incubo, no, il dramma, l'incubo degli anni di piombo, ma il 78 è anche l'annuncio, lo stesso anno è anche l'annuncio degli anni 80, perché il 78 trionfa anche da noi la febbre del sabato sera, inizia il reflusso, eccetera. Ecco, in questo ventennio, perché il 68 non è inciso così a lungo? Non è inciso al quanto si poteva sperare. Dentro questo ragionamento molto critico, io che non sono cristiano, diciamo, ma penso sempre a una parabola evangelica, quella del padre che dà ai figli, a uno dà un denaro, a uno 3, altri 10, ad altro 10, ed esige da ciascuno, no, di essere, che ritorni in proporzione, diciamo. Ecco, la nostra generazione ha avuto 100 di denaro, cioè noi siamo cresciuti nel miracolo economico, cioè siamo la generazione, insomma, io sono nato nel 47, io ricordo che da ragazzino sono con dei figli di contadini a piedi scalzi, perché le scarpe si usavano solo per la scuola. All'insieme i miei compagni più fortunati sono molto figli, quelli più fortunati, più ripetenti, anche una 500 al secondo mano. No, volevi capire che noi il paese l'abbiamo visto trasformato in una maniera colossale, e quindi forse dando qualcosa di più a questo paese potevamo dare, ecco, come generazione. Insomma, a me è molto colpito qualche tempo fa ritornare sulla storia di Walter Tobagi. Walter Tobagi è nato a Milano, saremmo stati coetanei, è stato nel 47. Lui ha cominciato con molti di noi nei giornali di scuola, lui a Parigi, io piccolo liceo di provincia, insomma. e come i temi sono gli stessi, sono cose che scrive Tobagi sul cristianesimo rivoluzionario, così sono le stesse cose che scrive Alex Langer a Bolzano, diciamo. Questa era la generazione. E poi a un certo punto, se dobbiamo ragionare di figure coerentemente riformatrici che ti hanno portato, non ne troviamo tantissime di quella generazione. Forse quella generazione che pure ha vissuto con straordinario, che era vero quello che dice Bocca, no? Una grande passione per i poveri del mondo e per i problemi del mondo, ma diciamo però appunto priva forse di una reale cultura democratica che è esposta all'ideologia, anche all'ideologia liberticida, come dicevamo prima. E da un altro punto di vista, proprio se il problema è questo, se il problema di questi anni 58-78 è una grande trasformazione non governata, una grande trasformazione senza regole, beh, il problema delle regole, se dopo pure se lo pose. E guardate che non è che oggi lo dice, cioè io lo dico adesso, ma Jürgen Habermas lo disse agli studenti tedeschi allora, e naturalmente noi eravamo tutti, cioè gli studenti tedeschi li fecero trasferretti, Guarelli Piacentini pubblicò quell'articolo, e io ero totalmente d'accordo con gli studenti tedeschi, adesso credo che questo è totalmente appropriato. Bene, e con questo cominciamo, diciamo, possiamo entrare in quelli che possiamo considerare i prodromi dell'Italia attuale, insomma, di questo disastro che è l'Italia attuale. Io credo che tu hai ragione quando ti identifichi appunto negli anni Ottanta, così preannunciati dal Pepe del Sabato Sera, ma che prendono poi dei connotati più consistenti, più significativi, e il craxismo e tutto il resto. Eccoci, dici qualche cosa di più di questo, ecco. Qui appunto il discorso può farsi più stringente, nel senso che lì davvero cominciano a intravedersi alcuni elementi di fenomeni che poi precipiteranno successivamente, anche se resta inteso che senza la grande crisi della fine anni 90 non avremmo visto le stesse cose, però certamente alcune premesse sono negli anni 80. Molti le vedevano, poi magari qualche citazione la faccio anche io, se no mi viene anticipi tu, la faccio anch'io. Ma direi che intanto, no, la cosa è interessante, perché discutendole oggi viene naturale saltare gli anni 60, è naturale. E la cosa si va a far pensare, anche a me, perché appunto gli anni 70 sembra che contino poco, cioè sembra in qualche modo lo sguardo, lo hanno osservato anche altri, no? Che negli anni 80 riemergono sostanzialmente senza più articolo più alcuni elementi negativi della modernizzazione italiana, però negli anni 70 ci sono stati. Ed è interessante, cioè anni terribili, giocati su due versanti, perché non sono stati la stessa cosa, insomma, c'è stata quella che nella prima metà degli anni 70 era la cupezza del crimine data da quella che è chiamata strategia della tensione, stragismo di destra e così via. Guardate che si arriva al 74 in questo modo. Il 74, non solo per ricordare di cosa stiamo parlando, perché in genere si schiacciano gli anni 70 sugli anni di piombo, no, ma diciamo, quella clima lì, quello cominciato con la strage di Piazza Fontana, continuando negli anni successivi, insomma, il suo culmine e la fine, la culmine con l'inizio della fine nel 1974. Allora, nel 1974, al tempo stesso, il referendum sul divorzio dal segno di un'inversione di tendenza, però poi nel 1974 accadono, solo per fare 4-5 esempi, la strage di Piazza della Loggia a Brescia contro un comizio sindacale, la strage del Trevitalicus, un tentativo, un progetto di colpo di Stato che Carlo Sogno ammette prima di morire, no? E adesso viene ristampato il libro di Cazzullo che ne parla. Viene arrestato per cospirazione contro lo Stato, non per cospirazione contro lo Stato, il generale Lucidi, che fino al giorno prima era diretto ai nostri servizi segreti. Questo crea contraccolpi. L'allora ministro degli interni, Paolo Emilio Taviani, scrive sul suo diario che il capo di gabinetto lo sveglia di notte dicendogli dormi fuori. No? La segreteria del Partito Comunista discute seriamente cosa fare in caso di cosa. Questo è il segretario. Questo pesa e questo, diciamo, influisce anche nel dopo, cioè nel dare il senso di una sfiducia della democrazia, di una democrazia che non tiene, no? Alla base di molti percorsi che portano al terrorismo c'è anche questo, no? Fra tutto questo. Poi c'è la stretta degli abiti di piombo e in qualche modo, finita quella stretta, appunto, c'è l'inversione nell'ottimismo degli anni 80. Ma alla fine degli anni 70, questo è il primo punto, diciamo, il primo punto che volevo dire, è la fine degli anni 70 non è solo il libro. La fine degli anni 70 è anche, attenzione, mette in luce, insomma, anche dei processi di degenerazione dello Stato, del rapporto fra economia e Stato, che si chiamano i simboli, ma la punta dell'iceberg, dei nomi di Sindona, Gelli, Cefis e così via. 1980, l'anno d'inizio, il 1980 è un anno straordinario, diciamo, nel senso che c'è assolutamente tutto, però diciamo, fra il punto che c'è, il 1980 vengono anche appunto moltissimi casi di corruzione. Italo Calvino scrive un bellissimo racconto, Apologia sull'onestà nel paese dei corrotti, pubblicato da Repubblica, che inizia, c'era un paese che si reggeva sull'illecito, un giornalista, Paolo Bozzati, fa un'intervista famosa a Franco Evangelisti, braccio destro di Andreotti, allora ministro Evangelisti, dopo lo scandalo del Talcas, la fuga di costruttori bancarottieri, Caltagirone, che hanno dato un mucchio di soldi alla Democrazia Cristiana, e l'intervista è famosa perché Franco Evangelisti dice a Guzzanti, certo, Gaetano Caltagirone mi veniva tutte le volte che mi vedeva, mi diceva a fra che te serve. In realtà l'intervista era cominciata prima e Guzzanti l'ha raccontata alla morte di Evangelisti, nel senso che quando si sono trovati al tavolo, Guzzanti ha preso la penna e Evangelisti ha detto, non scrive, prima ti devo spiegare il background. E il background è, ci avevo mangiato tutti, 1980. Massimo Riva su Repubblica, di fronte al moltiplicarsi di casi di corruzione, scrive questa cosa, 1980, dice per profondità, insomma, la corruzione è tanto profonda che non si era mai vista, insomma, e senza precedenti, si materializza nel paese il fantasma della Seconda Repubblica e si diffonde l'ansia che qualcuno si levi contro chi opera così disonestamente con poche parole. In nome di Dio andatevene, liberateci dalla vostra presenza, aggiunge Riva. Ogni giorno che passa si attenua la speranza che a parlare così sia un politico sagace e democratico, cresce il timore che possa farlo con successo qualche avventuriero senza scrupoli. 1980. Facciamo un salto di 7 anni e 1986 c'è la vogliamo, poi ci torniamo, ma solo per dire che, per diciamo, riprendere la cosa di San Antonio, guarda che qualcuno le vedeva le cose, magari non si immaginava che sarebbero andate così avanti, insomma. Ma diciamo, gli anni 80, poi ci torniamo, insomma, sono anni più del deperimento della politica, no, poi ne parliamo, perché recentemente si è parlato di quegli anni di modernizzazione della politica, finiscono con un crollo, altro che modernizzazione. E la politica è talmente deperita che a un certo punto fa una trasmissione del sabato sera fantastico con Celentano, forse qualcuno se la ricorda, in cui Celentano faceva giustamente la difesa della foca monaca, faceva spegnere le lampadine agli italiani, insomma, se volevano, parlava contro la caccia, insomma, ridevo un po', il vecchio Scalfa rise meno e fece questo ritrattino dell'occidentalismo. Quindi le cose che vi leggo sono riferite ad Adriano Celentano e al 1987. Ecco, che cos'è l'occidentalismo? L'uomo di successo che si è fatto da solo, il carattere che ha creato fin dagli inizi e che per lui è una specie di famiglia allargata, il carisma, la sua ostentata ignoranza per tutto ciò che è complicato, che va al di là dei sentimenti elementari. A dirla in breve, si tratta di una mistura sapiente tra la forza della televisione e la democrazia plebiscitaria, che capita in una fase di smarrimento massimo della società e di assenza pressoché completa di ogni principio e autorità. Scaldano concludeva. Celentano fa la scuola. Ha messo in moto un meccanismo, ha reso visibile il fascino ipnotico della televisione. Ha dimostrato che una massa cospicua di italiani è inerte, disponibile alla suggestione di un guru attrezzato per la visione, stufa e arcistufa dei farisei di sempre e dei sepolcri imbiancati. Qualcuno prima o poi perfezionerà l'esperienza, la volgerà a un fine mirato e politico. Eugenio Scalfa nel 1987. No, allora penso che ci arriva alla fine. No, dicevano, poi torno sugli anni 80, cioè la cosa che a me ha colpito è che alcuni processi erano visibili, diciamo, processi della politica ma anche processi della società. Cioè, diciamo, nuovi processi, cioè, appunto, gli anni 70, termine. l'hotel in alcuni grandi luoghi dove vive, per esempio la realtà, quello che era Sardo, non tempo la realtà di realtà, e così via. Insomma, iniziano appunto, iniziano ad avere anche ceti emergenti, così, ceti sociali nuovi. Guardate che l'istituto, c'era un istituto che è passato la storia come istituto, come la progetta di questi ceti emergenti, il CENS, che in ogni rapporto annuale ogni anno segnalava questi segni di vitalità. Ma il CENS non è tanto la festa, non è un festo, segnalava questa realtà al tempo stesso, pur avendo sempre uno sguardo un po' ottimistico su questi centri, ma indicava con grandissima lucidità i segni negativi all'interno di questo, i segni di annerimento di coscienza civile, l'estendersi di una sorta di una cultura dell'individualismo protetto, no? Per cui lo Stato ti deve proteggere, ma guai se ti chiede qualcosa, e così via. Insomma, e vedeva la corrispondenza di questo privare il pubblico, questo piegare il pubblico al privato, vedeva una corrispondenza fra quello che succedeva nella società e nella politica. E questi processi appunto andarono avanti in modo fortissimo. Ripeto, appunto, in fondo, diciamo, davvero è come se alcune caratteristiche, le caratteristiche più negative del miracolo italiano, cioè quello che appunto negli anni 80 verrà chiamato rampantismo, no? Cioè il termine degli anni 80, ma che va benissimo per certi aspetti dell'Italia degli anni 60, l'Italia che si è raccontata dai film della commedia italiana, da Sorbasso, Una vita difficile, Il maestro di Vigevano, insomma, quella roba lì sembra emergere negli anni 80 sempre per tutti i corpi, senza più nulla che facesse da anticorpo, che negli anni 60 pure c'era un movimento operaio, c'erano solidarismi sociali estesi delle regioni rosse, ma anche larghe parti delle regioni bianche, quelle da cui nascerà la terza Italia, diciamo. C'era della cultura, dei nuovi valori collettivi che si affermavano dentro il mondo giovanile. Ecco, negli anni 80 sembra che appunto tutto questo scompare, insomma, sembra, per raccontare gli anni 80 basterebbe prendere alcuni film degli anni 60 e poi aggiungersi un elemento che è un elemento che negli anni 60 ancora non c'era, che è una, insomma, c'è una battuta molto famosa di un film che è più noto per altri aspetti, 9 settimane e mezzo, ma lo Yuppi, protagonista del film, a un certo punto, dovendosi presentare, dice: piacere, faccio denaro con il denaro. Ecco, questo aspetto negli anni 60 c'era meno, diciamo, ma per altri aspetti, insomma, appunto, sembra quasi che quegli aspetti lì emergono. Modernizzazione, aveva colpito molto, al di là dell'occasione che l'ha, che ha stimolato questa discussione, insomma, mi ha colpito molto e mi ha lasciato molto esterrefatto l'idea che gli anni 80 siano stati anni di modernizzazione della politica. No, la discussione è stata molto forte quando si è parlato di Craxi qualche mese fa. Ma modernizzazione della politica, ma insomma, l'estensione a macchia della corruzione, non è che si è riformato il sistema, è crollato il sistema su se stesso per le proprie colpe. La grande riforma, ma non c'è stata nessuna grande riforma, anzi l'unica volta che c'è stata l'idea, insomma, referendaria di modificare alcuni aspetti, grazie a tutto andare al mare, no? Il debito pubblico, il passaggio appunto, si passa dal 60%, il debito pubblico era la vigilia degli anni 80, il 60% del prodotto interno lordo, è 120-130% nell'inizio degli anni 90. Guardate che il debito pubblico è la cosa più eticamente riputante che ci possa essere, simile a pagare i figli e le nostre colpe. No, altro che le colpe dei padri che non cadono sui figli, le colpe degli anni 80 sono ricadute sì, e quanto sui figli degli anni 90 e poi. E quindi questa idea, no, di anni 80 è francamente non. Naturalmente gli anni 80 non sono questo, un'altra obiezione, un'altra discussione, insomma, che certe volte c'è, insomma, appunto, giustamente dice, guardate, però, che anche in fondo, sì, tu nel libro, insomma, mi si dice, nel libro non tratto molto bene Craxi, come avete capito, insomma, in genere mi dicono, però insomma anche Felipe González in Spagna dice la corruzione, ma poi appunto metterà pure, no? E la politica spettacolo, la cultura spettacolo, l'ha fatta anche Jean-Claude, il ministro della cultura della Francia. Jean-Claude ha fatto cultura spettacolo, Jean-Claude ha investito, oltre alla cultura spettacolo, ha investito assolutamente in tutte le strutture culturali francesi, dal museo, dal teatro, all'audiovisivo, cioè tutte, no? E ha lasciato dei segni, ha investito sui giovani. Domanda cattiva: c'è qualcuno di voi che si ricorda chi è stato ministro dei beni culturali in entrambi i governi Craxi? No, no. E, insomma, siamo a quel livello lì. No, no, un signore che si chiama Antonino Bullotti, un degustatore siciliano che sapeva solo manovrare le teste, diciamo, no? Allora, io non dico che la differenza tra Craxi e Bitterami è quella tra Antonino Bullotti e Gemma, da un po' l'idea, però voglio dire che alcuni aspetti non sono solo italiani, cioè gli anni 80 non sono da alcuni, diciamo, alcuni versanti degli anni 80 sono versanti internazionali. Anzi, a me poi ha colpito trovare, non so se era fondato, trovare uno studio sulla cultura, sui media, insomma, inglesi, in cui il ritratto che fa negli anni 70 potrebbe essere applicato all'Italia degli anni 80. Cioè, non sono solo italiani questo, alcuni aspetti, però certamente se andiamo a fare la comparazione, in Italia abbiamo degli elementi di, degli elementi che altrove non ci sono, appunto, diciamo, sì, diciamo, gli amici stranieri dicono sempre a voi italiani l'anomalia. Ragazzi, là, quando avrete per lo scuola anche voi per 16 anni non sarà un fenomeno, fino ad allora un pochino sulla nostra anomalia ci possiamo ragionare. Questo è un attimo il tentativo di ragionamento. Sì, così siamo arrivati purtroppo, lo devo dire, al presente, insomma, cioè al punto di partenza della domanda angosciosa, come perché abbiamo fatto questo cammino, qual è l'orizzonte che abbiamo attorno. Certamente non è un orizzonte statico, perché di giorno in giorno ci accorgiamo che le cose cambiano, però sembra effettivamente bloccato, cioè sembra una situazione questa dalla quale non riusciamo a vedere via d'uscita. Allora io vorrei che dicessi forse ancora qualche parola su questa età berlusconiana, su questi ultimi 15 anni. Il motivo per cui io sono qui è non solo quello di dialogare con Guido in quanto studioso del secondo dopoguerra, ma anche in quanto sono autore di un libricino che è più una delle stesse pretese del lavoro di Guido, è la metà di questo, pesa 70 grammi, e costa meno, e forse è ancora più triste del suo, nel senso che, anche se, però c'è un intreccio tra i due, nel senso che io ho imparato parecchie cose e mi sono servito di parecchie cose, tra quelle che lui individua, soprattutto direi questo fatto che, senza volerla fare troppo lunga, senza voler andare troppo indietro, ma insomma quegli anni Ottanta certamente rappresentano l'incubazione per molte cose, non solo per i fenomeni della trasformazione della politica, ma anche per la trasformazione dell'economia e della società, che lui ricordava, c'è stata una mutazione genetica, è scomparsa diciamo la fabbrica fordista come elemento dominante, sono comparsi nuovi ceti, nuove condizioni sociali, nuove culture, la televisione ha cominciato a trasformare le persone in senso antropologico, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi c'è la crisi degli anni 90, che è poi una crisi che ha una dimensione, un orizzonte internazionale. Fine della guerra fredda, crollo del mondo comunista, crollo dei sistemi di riferimento che hanno caratterizzato un'intera epoca, e quindi lo scenario cambia improvvisamente, non si sa bene come, esce fuori, forse si sa, adesso ormai forse lo sappiamo, ma insomma esce fuori dal coniglio, dal cappello, che definisce insomma il quadro nuovo. Questa è l'età di cui noi siamo tuttora immersi. Vorrei che dicessi qualche cosa su questo punto. Se vuoi possiamo anche discutere brevemente in pubblico di un aspetto particolare. Io questo mio libricino, che si chiama Berlusconi passato alla storia, della stessa collana di questa su cui lui ha pubblicato molti dei libri che abbiamo nominato, accenno ad un capitoletto di 3 o 4 pagine dedicato alla Lega, nel quale io mi sono ispirato, ho utilizzato gli studi di questa antropologa francese che si chiama Linda De Matteo, che è stata un anno a Bergamo e ha studiato dal vivo l'antropologia leghista, il linguaggio leghista. Giustamente Kranz ci ricorda che la Lega nasce negli anni 80, appunto, e ha radici profonde. Ma insomma, io sostanzialmente mi sono ispirato a questa pagina dell'antropologa francese per utilizzare questa idea che la Lega interpreta padana, che è quella delle maschere, che mettono in scena il duello tra l'umile e il potente, e l'umile, che assume la maschera dello sciocco, risulta vincitore in questa specie di dimensione carnevalesca, e con questo linguaggio, con questa rappresentazione, diciamo, si interpretano umori profondi che alla fine sono vincenti. Qua mi telefona Guido e mi dice: ma non puoi trattare così la Lega, come dire, no? Perché l'hanno detto chi era votata un mese fa, te l'hanno detto, sì. Il 16% in Emilia, ma il concetto 20% a Parma, 20% a Piacenza, che dice che non la puoi trattare così. Ma certo, ma il teatro popolare era popolarissimo proprio perché era teatro popolare, cioè perché aveva un linguaggio, perché aveva dei, perché costruiva, diciamo, costruiva dei miti intorno ai quali, e interpretava istanze anche di giustizia, che so io, o di ingiustizia, o di vendetta, o di paura, e mette in scena e quindi io ho interpretato così le cose, ma sostanzialmente il punto è quanto è importante questo fenomeno, o quanto invece è superficiale. Naturalmente io sono convinto che è importante, importantissimo, ecco, ma questo è stato un po' il punto di discussione fra noi. Possiamo, se vuoi poi chiarire meglio il tuo pensiero su questo punto, chiarire meglio, se vuoi, anche una tua diagnosi sulla situazione, sulla brutta situazione che stiamo vivendo, e poi abbiamo anche lo spazio per un po' di discussione col pubblico, che mi sembra sia, visto che abbiamo fatto una lunga carrellata in cui la storia e la memoria si intrecciano, potrebbe esserci chissà qualche interessante elemento di dialogo. A te la parola. Sì, no, sull'oggi appunto Berlusconi passato la storia, ha scritto te, quindi credo che potresti riprendere anche non solo come interlocutore, non solo come discassa, insomma, non solo come interlocutore questi temi, che anche appunto indicare alcuni aspetti del tuo ragionamento, ad esempio proprio sul che paese siamo, no? Siamo ancora una democrazia, non siamo, che cosa siamo? Se non siamo un regime, non siamo una democrazia, cioè credo che questo davvero all'interno di questa discussione possa riprenderli tu. No, io volevo appunto semplicemente ricordiamo dire che nell'introduzione ci sono delle cose che io non capisco e che non so dire, cioè nel senso che la citazione con cui chiudo l'introduzione, proprio le altre pagine dell'introduzione, è una frase di Luigi Meneghello, che è dei Piccoli Maestri, che mi ha colpito moltissimo. Io non mi era sfuggita quando l'ho letto varie volte, l'ultima volta che l'ho letto in questi anni mi ha colpito moltissimo. A questo punto Meneghello scrive: che cos'è una patria se non è un ambiente culturale, cioè conoscere e capire le cose? E questo libro è nato dall'idea che nel nostro paese da un po' di tempo sia difficilotto capire le cose, non sia molto facile. E fra le cose, credo, quello che fra le cose in cui non trovate il libro questa risposta, ad esempio, è il radicamento della Lega, nel senso che io credo che sia comprensiva, non è un problema, e non credo che ce lo abbiano, l'hanno scoperto tutti il giorno dopo di questa elezione, non è che ce l'hanno raccontato tanti in questi anni, ce l'hanno raccontato, si parla di un giornalista che lavorava a Diario, che è andato in giro per l'Emilia e per la Toscana, ha scritto un libro Avanti Po, ecco, ci racconta delle cose che noi facciamo finta di non vedere, ma mentre vedete, perché per dire quanto è difficile capire le cose, io diciamo, ho un'idea del perché appunto la Lega si ferma negli anni Ottanta, insomma, in quella crisi, diciamo, oggi non lo capisco, adesso che tutti gli elementi di allora, l'antipolitica, il carisma, cioè, non ce n'è più uno che sia uno, eppure quel uscire dai suoi confini, che non era la Padania. Ivo Diamante ha detto giustamente che la Padania è quella a cui sta arrivando adesso, la bassa valle del Po, era la pedemontana, diciamo, quella fascia lì, insomma, sostanzialmente. Ecco, io credo che sia difficile capire questo, ma soprattutto quello, e quindi lo metto come punto aperto, cioè questo è un libro che vuole dire: ma perché non ci interroghiamo più? Questo è il punto di partenza del libro. A me molto, il libro parte da una riflessione, da una rivisitazione del dibattito che c'è in Italia fra fine anni 80 e inizio anni 90, perché la crisi della Repubblica non inizia con le indagini di Mani Pulite, inizia con la Lega, cioè la Lega che porta allo scoperto la crisi dell'identità nazionale, la crisi dello Stato, la crisi della democrazia in Italia. E guardate che il dibattito, quasi tutte le domande che trovate nel libro, e che avete sentito riprendere, insomma, in qualche modo, sono tutte domande poste allora. Anche da intellettuali che conosciamo, comunque intellettuali oggi abbastanza moderati, Sergio Romano, Galli della Loggia, scrivono cose di una radicalità assoluta sulla crisi, secondo me straordinarie, sulla crisi allora sulla crisi italiana. Ecco, allora perché quelle domande sono state lasciate cadere? È migliorata l'Italia dal 92-93 o no? E se non è migliorata, forse quelle domande andavano riprese, semmai rese ancora più radicali. Guardate, si può capire l'immediato, no? Quelle domande furono immediatamente lasciate, sempre sono accantonate di fronte alla grande euforia di questa straordinaria, salvifica Seconda Repubblica che ci aspettava. No, se ricordate, la Prima Repubblica era diventata il Sud, no? Cioè, era sempre Prima Repubblica, no? Ed era una cosa... la Seconda Repubblica non sembra che sia stata molto meglio della Prima, sembra che sia stata molto meglio, diciamo, quello voglio dire senza farla troppo retorica, ma insomma basta che mettete a confronto il dibattito della Costituente con il dibattito che c'è stato, che c'è sulla modifica della Costituzione, ragazzi, no? Altro che Prima Repubblica con il Sud, sentiamo, no? Siamo veramente... In un paragrafo siamo degli stanzi. Sì, insomma, cioè il confronto è tutta un'altra cosa, diciamo, no? Ecco, le domande sono queste, insomma, perché di questa crisi non abbiamo, ce la siamo rimossa? In questi anni io credo che la crisi si sia aggravata. Guarda che tuo libro è più triste del mio, solo per aver zitto su questo poco. No, nel senso che quando che questo libro scritto che è considerato ultra ottimista, ultra pessimista, ma adesso ragazzi sono delle cose insomma, no? Che è difficile, io non ne trovo nessuno che mi dice tu che sono pessimista quando andando in giro, faccio solo esempio, insomma, io riprendo il libro, riprendo una discussione che ci fu un anno e mezzo fa, insomma, quando riemerse, forse ricorderete, insomma, ci furono dei casi di corruzione, riemerse la corruzione politica alla fine del 2008, che coinvolgeva anche, insomma, non piccolissimo, anche il centro-sinistra. Roberto Saviano fece un articolo su Repubblica dicendo qui la cosa è più grave perché siamo di fronte a una corruzione inconsapevole. Cioè, infatti, la gente ormai, no, non c'è più corruzione, non si fa il modo migliore. Concetto forte, no? Beh, insomma, cose che abbiamo visto poi nei mesi successivi, altro che corruzione consapevole, voglio dire, no? Quindi, diciamo, in sostanza, io credo che sia consolidata quella brutta Italia che esce dalla fine degli anni Ottanta. E da questo punto di vista, guardate che, appunto, c'è qualcosa che paradossalmente si viene. Quando si parla di Tangentopoli, i giustizialisti sono la sinistra, no? Il Partito del Sud è la sinistra. Ma insomma, forse diciamo, qualcuno ha dimenticato, non sono i capi messi in Parlamento dalla Lega, non da Occhetto, insomma, no? Ma ha dimenticato che appunto c'erano i termini più feroci contro Craxi, Cinghialone, dagli al Cinghialone, hanno preso il Cinghialone, ma inventato un signore che si chiama Vittorio Feltri e che adesso dirige il giornale della famiglia Berlusconi. Il manichino di Craxi del Cosa dei Galeotti, io non ho visto foto di un manichino di Craxi del Cosa dei Galeotti in manifestazione della sinistra, però l'ho visto pubblicato dal Corriere della Sera in prima pagina a una manifestazione del MIST, dell'Alleanza Nazionale, dopo la soluzione di Craxi. L'assalto al Parlamento, fuori l'arte dal Parlamento, con le magliette arrendetevi, siete circondati, lo fecero dei giovani futuri ministri del Movimento Sociale Italiano, non lo fece l'estrema sinistra. E guardate, questo non è secondario, cioè il Feltri, oltre che sul giornale, andava ospite molto spesso da un tribuno, un altro grande voce di questa parte, diciamo, no? dell'antipolitica, che si chiamava Funari. E alla trasmissione di Funari, Gianfranco Funari, tornavano contro i politici ladri, gli albanesi, i clandestini, i maledetti, i ladri, eccetera. Cioè ci fu un rigurgito in qualche modo che... per cui non può in qualche modo stupire il fatto, l'esito, diciamo, l'esito che quel processo ha avuto. Era difficile pensare che ci fosse quell'esito, anche se un problema di riflessione forse c'è, perché non è tutto deterministico. Ma non è per raccontare una favola, ma non so se vi ricordate gli esiti delle amministrative del 93, prima cioè della discesa in campo di Berlusconi. Cioè non solo ci furono le elezioni dei sindaci, Bassolino, dei sindaci del centro-sinistra, ma ci furono città da Torino a Catania in cui al ballottaggio andarono le due candidate del centro-sinistra. Non è una favola, è successo davvero. Cioè, allora, certo, se le cose sono cambiate così drasticamente, è solo perché è sceso in campo Berlusconi, certamente da una parte sì, cioè fu coperto un vuoto al centro, ma non è anche perché in quella crisi della politica la sinistra è stata totalmente incapace di presentare esempi e prospettive di buona politica capaci di coinvolgere un paese disastrato dalla crisi dei primi anni 90. Io credo che la prima parte sia anche questo. Credo che c'è una ragione se la sinistra passa il vento, anche a molti di quelli che l'hanno votata, non solo a tutti quelli che non l'hanno votata. Cioè, al discutibile nuovo non è saputo opporre un nuovo decente. In un paese squassato da critica, per molte buone ragioni, talora anche per cattive, ma per molte buone ragioni, dalla critica della politica, non sapere nel disastro del 93-94 presentarsi come il continuatore del vecchio, essere incapaci di dare esempi di buona politica, secondo me è stato letteralmente un crimine. Allora, su questo punto mi sembra che effettivamente siamo arrivati al termine del percorso. La diagnosi pessimistica mi sembra l'hai fatta in due parole quando hai detto l'Italia peggiore si è consolidata, cioè non è un fenomeno fluido, liquido, si è consolidata, è diventata uno zoccolo duro. È vero che non è tutto il paese, ma è uno zoccolo duro, è qualcosa che non si potrà sciogliere tanto facilmente nel nostro futuro. Allora, se permettete, io vorrei chiudere con una citazione, un'autocitazione a questo punto, che è solo l'ultima pagina del mio libro, così senza altri commenti. Il suo stile politico è risultato più adatto a galvanizzare le schiere dei seguaci che non a governare. Da questo punto di vista non è stato, come egli pretende, un grande statista, meno che mai il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia avuto in 150 anni di storia, per usare le sue parole. Outsider della politica, ne ha certo imparato presto gli espedienti, le diplomazie e persino le capacità mediatorie che ne costituiscono in un certo senso l'essenza, esercitandole però solo all'interno del proprio campo, raramente nei confronti dell'altro, mai per governare il paese in quanto tale nella sua complessità e nel quadro delle sue istituzioni. Quando i suoi interessi personali e di potere sono apparsi seriamente minacciati, ha mostrato chiaramente di considerarli un prius non negoziabile, di fronte al quale tutto il resto, istituzioni comprese, diventa una variabile dipendente. Ha fatto leva su una retorica antinomica che attinge a fattori emotivi molto profondi e inconciliabili. Noi, loro, amore, odio, uomini onesti, vili, orditori di trame, libertà, illibertà, vita, morte. Ha agitato venti fantasmi come il comunismo per alimentare il disprezzo morale verso gli avversari. Ha delineato con coerenza l'idea di un nemico interno tipica delle logiche di guerra. Tutto ciò poteva essere comprensibile come espediente di sfondamento mediatico all'esordio, ma è invece divenuto la cifra stabile del suo dire e del suo agire, sfociando in una mobilitazione ininterrotta, paradossalmente sorretta da una retorica e da un'estetica della concordia, usata in realtà nella più classica delle modalità orwelliane per dividere anziché per unire. Il risultato è che a 15 anni di distanza dal sussulto di cambiamento prodottosi a cavallo degli anni 90, è come se la transizione non fosse approdata a nessun esito stabile. Al contrario, il paese ha imboccato un circolo vizioso di permanente tensione e di progressivo degrado, dal quale ogni via d'uscita sembrerebbe preclusa. E questo mi pare che possa essere, per il momento, e assalvo il dibattito, la conclusione del nostro